Avventurieri, vi trovate dinanzi a una porta monumentale, chiusa da un antico lucchetto magico. Incisi nel bronzo ossidato del battente, due simboli brillano debolmente alla luce delle vostre torce. Somma è uguale a meno 4. Prodotto è uguale a meno 21. Per sbloccare il passaggio, dovrete trovare la coppia di numeri che soddisfa entrambe le condizioni, la cui somma sia meno 4 e il cui prodotto sia meno 21. Solo pronunciando questi numeri ad alta voce, la serratura si sbloccherà.